Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri sera abbiamo visto come le detrazioni fiscali del 50 e del 65% dedicate alle ristrutturazioni e alle riqualificazioni energetiche in campo edilizio non siano state in grado di stimolare interventi di riqualificazione profonda, cioè capaci di dimezzare o più il consumo energetico degli edifici. Inoltre, una larga fetta della popolazione, basta pensare alla maggioranza dei pensionati, ha un prelievo fiscale insufficiente per poter godere appieno delle detrazioni. E ciò costituisce un blocco pesantissimo all'azione, diciamo, soprattutto nei condomini, dove pure vivono la stragrande maggioranza degli italiani e dove però bastano pochi voti contro per fermare tutto. C'è modo di superare questa impasse? Ci chiediamo. Ebbene, una proposta senz'altro interessante è quella portata avanti da Siren, associazione che ha proprio l'obiettivo di favorire una riqualificazione profonda del patrimonio edilizio italiano, il cui presidente è tornato a trovarci. Buonasera, Mario Tramontin. Buonasera Maurizio. Allora Tramontin, come si sblocca la situazione? Per sbloccarla bisogna trovare il modo per, da un certo punto di vista, rendere denaro contante quello che è un incentivo fiscale, perché questi signori non esiste a tutti gli effetti. Una proposta su cui sta lavorando a Sirene, che è una proposta bozzata, ovviamente andrebbe lavorato un po' meglio, creare uno strumento per alcuni aspetti, ecco, lo dico così per semplificarlo, simile un po' a quello dei certificati bianchi. Nel senso che le persone che non hanno incapienza fiscale avrebbero diritto a una sorta di titolo di credito che potrebbero essere portato alle banche, le banche potrebbero scontare questo strumento finanziario, loro avrebbero immediatamente del denaro contante, liquido. Non si opporrebbero più sostanzialmente a fare gli interventi di riqualificazione energetica, perché anche loro potrebbero godere dello strumento, e nello stesso tempo le banche, che sarebbero loro gli strumenti che permetterebbero di trasformare questo titolo di credito, tra le cose garantito dallo Stato. Cioè la stessa banca alla quale magari si sta andando a chiedere il prestito per fare l'operazione di riqualificazione, lei mi sta dicendo, giusto? Tra le cose risolviamo questo problema delle banche. Le banche in questo momento hanno un grosso problema di impieghi, tra le cose un problema di impieghi legati ai finanziamenti che la BCE gli ha passato, che devono essere destinati al rilancio dello sviluppo. Quindi avrebbe una soluzione, diciamo, che aiuta le persone in difficoltà, permette alle banche di investire e permette, della cosa più importante, di rilanciare immediatamente tantissimo lavoro che in questo momento è bloccato, perché queste persone, le chiedo proprio di partecipare a qualche assemblea, si oppongono immediatamente a qualsiasi tipo di intervento, perché dicono: tanto a me questa roba qua non posso recuperare niente. E certo, quindi mi oppongo. Certo, poi se pensiamo che magari uno ha anche 70-75 anni non è neanche sicuro di campare 10 anni successivi, ammesso di avere la capacità detrattiva, si capisce che così lo strumento in questi contesti è debole. Dunque, un'altra ipotesi che è venuta fuori al convegno è quella di, diciamo così, rendere girabili le detrazioni fiscali alle imprese che fanno il lavoro. Può funzionare una cosa del genere? Secondo me no, nel senso che l'impresa avrebbe un grosso problema finanziario, perché l'impresa recupera in 10 anni l'incentivo fiscale, ma nell'anno che fai lavoro devi pagare tutti i propri fornitori. Quindi o viene data la possibilità, sempre tramite il sistema bancario, di avere delle linee di credito speciali che possono, diciamo, permettere di scontare questi crediti fiscali anche alle imprese, o se no io mi troverei nella situazione in cui non posso recuperare subito le tasse, devo pagare fornitori, dipendenti, tutto quanto. Questo è il limite di questa operazione. È una cosa che magari è più fattibile per i soggetti che fanno interventi di gestione dell'energia, sì, stanno per vari anni all'interno di un condominio e quindi possono recuperare gradatamente via via, sì, che hanno i flussi di cassa, ma chi fa un appalto che paga all'anno uno tutto, una botta e via, non va bene, non va bene. Esatto, avrebbe un grosso problema finanziario, e quindi la vedo, diciamo, la suggerisco decisamente di meno come tipo di ipotesi. Dunque, naturalmente una delle cose più ovvie sarebbe aumentare il delta che c'è fra, diciamo, la distanza che c'è fra le detrazioni per la riqualificazione energetica e quelle per le manutenzione straordinaria, e questo va da sé. E un altro problema che è venuto fuori riguarda appunto il reperimento dei capitali, cioè queste operazioni hanno una loro economia intrinseca, ma naturalmente bisogna anticipare il denaro. Serve questo capitale iniziale e normalmente si va a chiedere in banca. Lì però c'è un cattivo rapporto, diciamo così, tra le banche e i condomini. Sì, le banche non capiscono il condominio, perché il condominio non è un soggetto giuridico, quindi non hanno un unico interlocutore con cui devono dialogare, dialogano in maniera intermediata con le famiglie tramite un codice fiscale che non è un soggetto giuridico, quindi per questo le banche vedono con difficoltà questo tipo di strumento, e quindi anche a causa di questa ragione, tendono a fare forme di finanziamento più corte nel tempo, arrivano a 60 mesi, quando questi tipi di intervento di riqualificazione energetica hanno spesso dei tempi di ritorno finanziario che viaggiano tra i 7 e i 10 anni. E anche questa è una delle cause, tra quelle che lei ha citato, che rallentano l'adozione di questo tipo di provvedimento all'interno dei condomini. E quindi qui la soluzione è quello di andare verso condominio che ha una personale giuridica, cosa che il mondo dei condomini non ama forse moltissimo, è una complicazione in più alla fine. Questa è una possibile soluzione che molte banche richiedono. L'altra soluzione è di avere coraggio da parte delle banche di sviluppare prodotti di finanziamento per le famiglie che hanno dei tempi lunghi sostanzialmente. Grazie Mario Tramontin. Grazie mille a voi e buona serata. È tutto, a domani.